in primo piano. Buona giornata da Oscar Giannino, grazie Alessandro per la linea. Vediamo subito i temi che si affacciano sulle prime pagine dei quotidiani. Direi che ancora oggi l'immigrazione e le polemiche sui respingimenti in mare, quindi fuori dalla frontiera italiana, sono il tema sul quale Stampa, Repubblica e Corriere della Sera dedicano il titolo d'apertura, ma poi gli altri titoli si diversificano sui quotidiani. Vediamo quali sono gli accenti sugli immigrati. Comunque la Stampa, il quotidiano diretto da Mario Calabresi, ha un titolo che dice immigrati, l'ONU contro l'Italia. Repubblica, immigrati, scontro Italia-ONU. Crisi con l'ONU sugli immigrati, quindi vedete che più o meno gli accenti del Corriere della Sera, di Repubblica e di Stampa si equivalgono. La Stampa fa la scelta di far reggere il suo titolo di apertura sull'immigrazione a un approfondimento dedicato alla politica italiana, firmato da Augusto Minzolini, impredicato per essere il prossimo direttore del TG1, dal titolo Un colpo a Fini e uno alla Lega, e la vicenda quindi viene incentrata tutto sull'analisi delle valutazioni che il premier Berlusconi sta conducendo per equilibrare i pesi all'interno della sua maggioranza. Il premier, scrive Augusto Minzolini, convinto che questo sarà uno dei temi forti della campagna elettorale delle oramai imminenti elezioni europee, ha voluto rimarcare il suo primato in quella politica del governo che, grazie anche agli accordi con la Libia, sta permettendo all'Italia di riportare nei porti di partenza gli immigrati clandestini intercettati nel canale di Sicilia. Sono intese che ho sottoscritto io e sono intese che faccio applicare io. Questa analisi in cui Augusto Minzolini mette a fuoco le virgolette scintille con gli alleati, mentre il Corriere della Sera preferisce, sotto lo stesso titolo di apertura, annunciare poi l'approfondimento che fa a pagina 2 e 3 dedicato al tema delle richieste di asilo, ed è un articolo firmato da Fiorenza Sarzanini. Pagina 3, asilo, aumentano i sì, 38% delle richieste accolte, i dati del Viminale, nel 2007 il 50% veniva dal mare. Anche qui poi una nota di politica interna firmata da Massimo Franco, la mossa del Cavaliere mira a ridimensionare il protagonismo leghista su toni analoghi a quella di Minzolini sulla Stampa. Vediamo però gli altri temi, le altre scelte oltre all'immigrazione. Sicuramente il quotidiano che dà più rilievo in prima pagina oggi alla notizia che è rianimato, le cronache sportive, c'è cioè l'annuncio della Ferrari, anzi una conferma più di un annuncio, di essere pronti a non iscriversi alla prossima edizione del Mondiale di Formula 1, e la Stampa con un'amplissima fotonotizia che occupa tutto il taglio centrale del quotidiano di Torino: Ferrari shock, ci ritiriamo dal Mondiale. Trovate poi notizie e approfondimenti alle pagine 10 e 11 del quotidiano di Torino, con anche qui un retroscena firmato da Stefano Mancini che vi segnalo, il cui titolo rivela il vero intento e propone una lettura vera di questa dichiarazione shock della casa automobilistica presunta da Luca Cordero di Montezemolo. Il titolo dice: Mondiale bis, e questo è il vero obiettivo. Se la FIA, cioè la Federazione Internazionale, non cede alla richiesta del cavallino, allora il cavallino correrà a Le Mans e a Indy. Ma il piano è un campionato autogestito, senza le rosse per questo sport sarà un disastro, l'intervista ad Alain Prost, mentre sapete che Lauda, come riportato su molti quotidiani oggi, ha dato un giudizio diverso, un giudizio molto critico invece della scelta della Ferrari. In prima pagina ancora sulla Stampa i richiami delle notizie culturali che costituiscono gli approfondimenti in vista della Fiera del Libro. L'assassino dei libri non è il web, trovate con questo titolo annunciata in prima pagina l'intervista a Umberto Eco, in cui il semiologo spiega che internet insegna ai giovani a leggere e fa vendere un mucchio di copie, ma i nemici veri della carta stampata sono quelli che chiudono i volumi scrigli inaccessibili. E poi c'è il pezzo di Ernesto Ferrero che presenta tutta la fiera all'interno. Ma in prima pagina sulla Stampa mi piace individuare il fatto che il quotidiano diretto da Calabresi resta un po' fedele allo stile che aveva dato il direttore precedente Anselmi, molto giornalismo d'inchiesta più che sugli altri grandi quotidiani italiani, se posso dirlo, ed è molto Secondo me è ben fatta questa inchiesta che viene richiamata in prima pagina sotto il titolo di apertura, la stampa di oggi, che trovate poi a pagina 6 e 7, è dedicata al colpo forestale dello Stato. Il titolo è Amici e parenti, la forestale è una grande famiglia. I figli dei comandanti della corte di papà, troppe coincidenze, sospetti sui concorsi. Due parlamentari del PDL, stop, alle prove. E gli articoli poi, che compongono questa inchiesta sono di Paolo Festuccia. E trovate ben riepilogati a pagina 6-7 con tanto di schemini tutte le inquietanti coincidenze tra figli e parenti dei dirigenti locali, centrali e periferici del corpo forestale dello Stato. Altri temi ancora: il Repubblica, il quotidiano che dà in prima pagina più rilievo al via libera venuto ieri al piano per le centrali nucleari. Nucleare, via libera al piano per le centrali. Articoli a pagina 6 e 7 del quotidiano diretto da Ezio Mauro, trovate una dettagliata ipotesi formulata da Maurizio Ricci a pagina 6 su Repubblica di dove potrebbero essere individuati i siti delle nuove centrali nucleari, però trovate anche poi un'intervista a pagina 7 al presidente della regione Piemonte, Mercedes Presso, un'intervista firmata da Marco Trabucco, il cui titolo è esplicito: le regioni, dice il presidente della regione Piemonte, non resteranno fuori, ci opporremo con ogni mezzo, ci provino a individuare i siti scavalcandoci, io appena so che aree hanno scelto ci metto un vincolo agricolo o quant'altro e vediamo chi la spunta. Non mi sembra proprio una buona premessa di quella cultura del fare di cui avremo bisogno per diminuire il nostro gap energetico. Comunque è molto interessante Repubblica e il quotidiano che dedica più spazio a questo. Repubblica in prima pagina c'è ancora un follow-up, un seguito delle polemiche scatenatosi 2 settimane fa oramai intorno alla vicenda Noemi e alla puntata a Casoria del premier Silvio Berlusconi. C'è un commento in prima di Natalia Aspesi, Veronica e le donne al tempio, al tempo del cavaliere, che prosegue a pagina 32. Ve ne volevo leggere solo una riga finale. La parte centrale del commento dell'Aspesi è dedicata al fatto che le donne sono tornate a essere il bersaglio del maschilismo più fascistoide, con i giornali che le attaccano alla ricerca dei loro ex amanti passati. E poi c'è una chiusa in cui, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate da Noemi a una sua recente intervista, è stata lei in totale incoscienza a sfoderare una parola che era uscita dal vocabolario di uomini e donne, persino in confessionale, che non era più comparsa tra i problemi, le angustie, le indispensabili virtù femminili. Proprio lei, Noemi, ci ha ricordato che, virgolette, la verginità è un valore importante, chiuso virgolette, e chissà come si spereranno i suoi coloni che se ne erano dimenticate, conclude in maniera un po' ironica. Natalia Aspesi, sempre in prima su Repubblica trovate richiamato gli articoli di apertura della sezione centrale R2 dedicate all'Iran, dalla rivoluzione clericale al mito americano, ritorno a Teheran 30 anni dopo, Bernardo Valle che approfondisce anche le circostanze che hanno indotto ieri il regime iraniano a rilasciare Roksana Sameri e a dichiarare gli Stati Uniti un po' a sorpresa nel contesto internazionale, paese non più ostile. Mentre dalla prima del Corriere della Sera, tema diverso, una fotonotizia di Taglio Centrale: si apre il Festival di Cannes, intervista all'attrice Letizia Castà, la Castà porta la soluzione a Cannes. Poi a pagina 36 e 37 gli articoli di Manina e Merenghetti che approfondiscono la cornice del Festival Internazionale del Cinema. E taglio basso del Corriere della Sera, Ponte sul Po, si parla di quello crollato a Piacenza all'inizio della settimana scorsa, 18 allarmi inascoltati, anche questo una inchiesta vecchio stampo per così dire. Il giornale nella sua prima pagina un taglio completamente diverso, amplissima fotografia di apertura di Pietro si rifà la casa con i soldi del partito, Gianmarco Chioci e Paolo Bracalini nelle pagine 6 e 7, l'ennesima puntata dell'attacco epistematico che il quotidiano diretto da Giordano dedica al leader dell'Italia dei Valori, un editoriale in prima che mi è piaciuto molto, firmato da Nicola Porro, provocatorio, l'Expo, si sta parlando dell'Expo 2015, ma perché non lo facciamo in Abruzzo? Si chiede il vice direttore capo dell'economia del giornale, e il titolo d'apertura invece è dedicato a una specie di autodifesa di Berlusconi, virgolette, dietro gli sbarchi ci sono i criminali. La visita a Gerusalemme del pontefice è molto derubricata, devo dire, sui quotidiani italiani, ormai è scesa di tono, per così dire, è una delle cose più interessanti a questo proposito. Lo richiamo, è l'intervista ad Avraham Borg fatto da Elena Lowenthal, che trovate sulla stampa a pagina 4, il cui titolo secondo me dice abbastanza su Papa Pio XII: sento un silenzio imbarazzante. Ancora approfondimenti di politica sul convegno sulle Gastaldre internazionale lanciato dal G8 di presidenza italiana quest'anno, tenuto ieri dal ministro dell'economia Giulio Tremonti. Un'interessante ricostruzione che sta nella prima pagina del foglio di oggi, e che a dire la verità mi è sembrata quelle più precise e piene anche di particolari. Sono incontri che avvengono a porte chiuse su chi è intervenuto ieri a questo convegno internazionale. Tra cui Gary Hart, ve lo ricordate, l'ex candidato democratico alla Casa Bianca, che pare abbia molto elogiato l'ultimo libro di Tremonti. Lo trovate in prima pagina sul foglio. Tra Cave e Giulio, il Tremonti raccoglie elogi al pre-G8, ma il Global Standard slitta ritocchi al decreto Abruzzo. Ecco, uno dei temi poi trattati nelle pagine di politica dei diversi quotidiani è proprio quello in relazione alle polemiche che il quotidiano Europa ieri attribuiva tra Berlusconi e Tremonti in ordine alla copertura delle misure di sostegno all'Abruzzo. Su questo vi richiamo l'apertura del Riformista, il quotidiano diretto da Antonio Polito di oggi. Fotonotizia con Tremonti sullo sfondo, senza soldi, titolo d'apertura dall'Abruzzo al fisco, con articolo di Angelo De Mattia, ex dirigente centrale e collaboratore, braccio destro di Antonio Fazio alla Banca Centrale, diretto proprio ad approfondire i temi delle polemiche relative al consueto tentativo del Ministro dell'Economia di dare copertura attraverso scambi di competenza alle necessità di fare cassa in vista della crisi economica e del rifinanziamento in Abruzzo per il doposisma. Apertura del Sole 24 Ore di oggi per vedere un po' di economia. L'Europa fa il test alle banche, Tremonti in 12 punti, nuovi standard legali e basta Remida. Richiamo due commenti da cui ripartirò dopo la sospensione che adesso diamo per gli approfondimenti nel traffico. Uno di Martin Wolf sugli stress test e un altro invece di Luigi Zingales. Ma adesso gli approfondimenti sul traffico. In primo piano. Allora, Oscar Giolino torna a intrattenervi sui temi oggi, sulle prime pagine, sulle pagine interne della stampa quotidiana. Eravamo ai due commenti che vi segnalavo sulle 24 ore di oggi, quello di Martin Wolf, che trovate naturalmente anche sul Financial Times di oggi, e quello di Luigi Zingales. Quello di Martin Wolf è posto come editoriale in prima pagina, sulle 24 ore di oggi, davanti a Obama il dilemma Gattopardo. Nel senso che inizia proprio il prestigioso editorialista del Financial Times con una citazione del Gattopardo, quella famosa della frase che afferma: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. In qualche modo la tesi di Martin Wolf, che io condivido, devo dire la verità, è che questa frase sia un pochino la linea che sta seguendo l'amministrazione Obama in merito alla finanza americana. Una linea abbastanza conservatrice, che dice che cambia molto, ma poi cambia molto poco in realtà. Ed è quindi un giudizio che viene applicato nell'interpretazione degli stress test, cioè degli esami della capacità di restare solvibili, che sono stati condotti dai regolatori americani sui 19 istituti degli Stati Uniti che hanno attivi superiori, ciascuno di essi ai 100 miliardi di dollari. Un esame di solvibilità che mi ha lasciato, devo dire, molto critico, perché secondo me è stato condotto con l'obiettivo preminente quello di rassicurare i mercati e far salire i corsi, piuttosto che quello di fare veramente piazza pulita degli attivi tossici delle banche americane. E Martin Wolf, in questo editoriale, Obama è il gattopardo, in maniera meno esplicita di quanto ve lo abbia detto io, ma comunque sottolinea che effettivamente sta un po' gattopardeggiando questo Obama, i cui proclami sono pieni di nuove regole, nuovi principi, svolte, iperpoteri attribuiti alla Fed, ma nella sostanza poi si fa di tutto per tutelare le grandi banche e si è contrattato con loro sconti delle ripatrimonializzazioni necessarie nell'ordine del 600%, come è avvenuto a Citigroup. Il secondo editoriale è quello di Luigi Zingales, lo zio Sam licenzia Paperon de Paperoni, lezioni per il futuro e in prima taglio alto a destra del Sole 24 Ore di oggi, prosegue a pagina 2, anche negli USA ritorna al pubblico perché Greenspan ha sbagliato. Ed è un'analisi in cui Zingales approfondisce la ragione per cui attualmente nei sondaggi di opinione pubblica condotti negli Stati Uniti la percentuale di americani che non si fida più del sistema di mercato è superiore a quella degli europei, sapete che stabilmente è sempre stato il contrario, e dunque Zingales dice bisogna riflettere molto su quello che sta avvenendo per evitare che prenda piede un drizzone troppo a favore dello Stato. Sui temi degli stress test, vi segnalo anche che c'è l'apertura del Financial Times di oggi, che invece sulla richiesta che viene dal Fondo Monetario Internazionale rivolta alle autorità di regolazione e di sorveglianza europee di compiere stress test anche nel nostro continente. Ci si riferisce al fatto che i tedeschi su questo hanno una cortina fumogena sugli attivi tossici delle loro banche, addirittura superiore alla prudenza gattopardesca con cui Obama ha fatto fare gli stress test sulle banche americane. Il secondo fascicolo del Sole 24 Ore di oggi, quello dedicato invece, sapete, alle imprese, finanza e mercati, ha un titolo su Mediobanca sconto generali. Si è tenuto ieri il Consiglio di amministrazione di Mediobanca dedicato ai risultati della prima trimestrale e si è parlato molto non solo dello sconto della quota originale, ma si è parlato anche di Telecom, la cui ipotesi di fusione con gli spagnoli di Telefonica, un'ipotesi giornalistica, è stata dichiarata esistente solo per invenzione dei giornali da Tarak Ben Amara all'uscita dal Consiglio di amministrazione e che purtuttavia è un'ipotesi ben presente all'attenzione degli azionisti di Telefonica. Lo conferma il fatto che su Corriere della Sera di oggi trovate a pagina 26, nelle pagine di economia, l'ennesimo approfondimento di Massimo Mucchetti sull'ipotesi Telecom-Telefonica in un editoriale il cui titolo è Telecom-Telefonica e la partita dei debiti, le tre soluzioni. Quali sono allora queste tre soluzioni approfondite da Mucchetti? La prima è lo scorporo della rete, su cui Mucchetti insiste da moltissimo tempo, la rete di accesso per cedere una quota a terzi. La seconda soluzione è l'aumento di capitale, e naturalmente con tutte le complicazioni che questo comporterebbe per una società i cui corsi sono andati storicamente così male come la Telecom Italia. E poi la terza soluzione è appunto la fusione tra Telefonica e Telecom Italia, che non sarebbe mai alla pari perché Telefonica vale 70,6 miliardi di euro e Telecom 17, ma che avrebbe il pregio di diluire il debito Telecom, oggi 3,1 volte l'EBITDA, in un gruppo più vasto. E quindi chi vuole approfondire su questo, l'analisi di Mucchetti è a pagina 26 del Corriere della Sera. Mi fermo ancora sul Corriere della Sera per una notizia che oggi mi aspettavo della verità avesse più eco sui giornali, innanzitutto su quelli milanesi, su quelli economici, cioè sul risultato della designazione che si è svolta ieri in Asso Lombarda su chi sarà il prossimo presidente dell'associazione più importante di Confindustria, più pesante dal punto di vista della manifattura e del rilievo delle imprese che vi sono iscritte, appunto Asso Lombarda. Ad Asso Lombarda ieri ha vinto Alberto Meo Martini, il candidato dell'ENI, azienda pubblica, e insomma è una vicenda di un certo rilievo che a Milano e in Lombardia la rappresentanza dell'associazione più forte industriale e manifatturiera in Confindustria sia guidata da un'azienda pubblica come l'ENI. Ed è stata una vittoria a sorpresa perché il candidato della presidente uscente Diana Bracco è stato sconfitto pesantemente, era un giovane quarantenne, Alberto Spalla. Sono Barda a Mio Martini, trovate a pagina 29 del Corriere della Sera la notizia, ma a Milano si divide sul voto. Il manager del gruppo Eni sarò indipendente. Ecco, mi aspettavo, dirvi la verità, qualche commento e qualche editoriale, perché è una vicenda che segna una svolta ed è molto significativa, ma la linea scelta da tutti i quotidiani senza alcuna eccezione è quella, diciamo, di una grande prudenza, e quindi non trovate nessun tipo di approfondimento. Richiamo rapidamente i temi dell'apertura dei quotidiani più politici, diciamo così, e quindi l'Unità di oggi, il ritorno delle caste, liberalizzazioni negate, il governo cancella tutte le norme volute da Prodi e Bersani al via la grande restaurazione e protesta dei consumatori, e poi anche il titolo dell'editoriale del Manifesto di oggi, retoriche disumane di Marco Revelli, con una ampia fotonotizia, sanzioni unite, e torniamo all'immigrazione. E dunque concludo anche per oggi e restituisco la linea a 24 mattina con Alessandro Milano.